24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, allora avete fatto il ponte, siete allegri, riposati, felici, tranquilli, sereni. Eccoci qua con Peter Bescapè, uso tutti questi aggettivi positivi perché ragazzi oggi a leggere i giornali, a parte che è il 2 novembre, si sa la data, si commemorano i defunti, e poi a leggere i giornali, sembra che venga giù tutto. E poi siete rientrati dal ponte, vi siete accorti per caso che la benzina e il gasolio costano un centesimo in più da un giorno? Ve lo diciamo noi, è così. Perché? Perché bisogna trovare i fondi, 65 milioni per sostenere gli alluvionati di Liguria e Toscana. Parleremo anche di questo, oltre alla situazione economica e finanziaria, alle 8:20. E con il professor Vincenzo Visco, ma parleremo anche di questo perché, ebbene sì, un po' in modo corrosivo ci vogliamo chiedere, ma era davvero il caso di toccare il portafoglio di tutti gli italiani in questo momento aumentando la benzina per una causa giustissima, quella del sostenere le persone alluvionate in Liguria e Toscana? Ne parleremo più avanti e allora tuffiamoci in questa brillante, ottimistica, rosea lettura dei quotidiani in edicola. Allora, è mercoledì 2 novembre, andiamo a vedere i titoli di apertura di tutti i quotidiani. Per il Sole 24 Ore vola lo spread, Italia sotto tiro, mentre il Corriere della Sera crolla la borsa, ultimo avviso di Napolitano, La Stampa, borsa e shock, l'Italia deve reagire. Il Giornale, ultimatum di Napolitano, Libero, pronto il governo Monti. Il Fatto Quotidiano, si salvi chi può. Il Messaggero, crolla la borsa, Napolitano in campo. Avvenire, tragedia greca per le borse. L'Unità, pericolo Italia per Repubblica, borse nel panico, Napolitano in campo. Il Secolo XIX, l'Italia affonda, governo in agonia. Il Manifesto, Magna Grecia. La Grecia, sapete, ha scelto in maniera molto lungimirante, creando il panico nelle borse, di fare un referendum su quelli che sono gli aiuti dell'Unione Europea. Vabbè, ma c'è chi sta meglio? C'è chi sta meglio, ce lo fa sapere Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. La colf del generale ci costa 58.000 euro. C'è chi sta meglio. L'aeronautica ha deciso di fare un bando. AAA cercansi donne di pulizia e cuoche pagate più di un docente universitario. Parole dell'annuncio che non sono certamente queste, ma il senso sì. Per accudire 9, dicensi 9, appartamenti delle alte sfere militari, l'aeronautica stanzia per 4 anni di questi tempi, dice Stella, 1.884.798 euro più IVA, per un totale di 2.278.798 euro per le colf e le cuoche di 9 appartamenti delle alte sfere militari dell'aeronautica, una media di quasi 253.000 euro ad alloggio, una gara bandita sul web che prevede per 6 lotti di alloggi di servizio assegnati a generali o ammiragli che ricoprano incarichi di alto comando, appunto le colf. Fatti i calcoli per un appartamento, per esempio, del capo di stato maggiore a Roma: 399 metri quadri di parquet, 143 di marmo, 275 di terrazzo. Beh, insomma, hai voglia a pulirlo, a tenerlo pulito. Ci vogliono appunto centinaia di migliaia di euro, il calcolo è incredibile. Fatti i conti, per esempio, per un appartamento a Pozzuoli di 189 metri quadri, la domestica chiamata a prendersi cura per 44 ore la settimana costerà in 4 anni con l'IVA 226.000 euro, vale a dire una media di 56.000 euro l'anno, molto più del doppio di quanto costa, tutto compreso una badante specializzata per non autosufficienti che resta a casa 24 ore al giorno. E allora nell'articolo di Gian Antonio Stella, che trovate un'intera pagina, dalla prima pagina del Corriere poi a pagina 29, colf pagate più dei docenti per pulire le case dei generali dell'aeronautica, un bando da 2 milioni e 300 mila euro per 9 alloggi di questi tempi. E poi vi voglio segnalare, vedete che c'è chi sta bene, insomma, sicuramente chi si ritrova ai vertici dell'aeronautica ha la casa sempre rassettata, voglio sperare, per quella cifra perfettamente. In tutto questo il premier britannico, cari ascoltatori, vuole sapere se i propri cittadini siano o meno felici. Il premier britannico Cameron ha mandato le sue 8 domande, un questionario al quale ha detto: cari inglesi, rispondete tutti, per favore, perché vogliamo stabilire un quoziente della felicità. E allora, ecco il questionario: sei soddisfatto della tua vita? Sei soddisfatto di tua moglie o di tuo marito? Che voto dai alla tua salute mentale e fisica? Hai un lavoro? Ti piace il tuo lavoro? Sei soddisfatto del tuo stipendio? Sei soddisfatto del tuo quartiere? Temi la criminalità? Che grado di istruzione hai? E infine, hai fiducia nei politici e nelle amministrazioni locali? Rispondendo a queste domande, le 10 domande di Cameron, gli inglesi devono dire se siano davvero felici. Cameron va in cerca della felicità per il secolo XIX. Ditemi se siete felici, il nuovo PIL di Cameron sul Fatto Quotidiano. E anche Buongiorno di Massimo Gramellini oggi sulla Stampa: chiedimi se sono felice. Ho provato a rispondere. Siete soddisfatti della vostra vita? Ahondate come tutti, finché non arriva un questionario a chiedermelo. Quanto soddisfatti siete di stare con vostro marito, con vostro marito o con vostra moglie? L'amore non si commenta. Che voto dareste alla vostra salute fisica e mentale? Un 6 politico, entrambe. Avete un lavoro? E vi piace quello che fate? Sì, e guardandomi in giro quasi me ne vergogno. Siete soddisfatti del vostro stipendio? Se penso a un ricercatore universitario, sì. Se penso a Scilipoti, no. Che grado di istruzione avete? Non abbastanza elevato per comprendere le parole pronunciate da Tremonti alla sagra della zucca. Sta venendo il tempo per mettere il pane al posto delle pietre e l'uomo al posto dei lupi. Avete fiducia nei politici e nelle amministrazioni locali? La prossima domanda, per favore. Ah, non ce ne sono altre? E allora, signor questionario, te ne farò una io. Perché in un mondo dove tutto è già numero, graduatorio e statistica, non lasci libero almeno il mio cuore di godere e soffrire senza parametri? La felicità è un sentimento, non un censimento. Quest'oggi il buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa. Forza, ottimismo e un buongiorno. Tra 5 minuti ci tufferemo nella lettura brillante, ottimistica di quello che sta succedendo in Italia e in Europa. 24 mattino. E allora sono le 7:33 minuti, tuffiamoci in questa lettura dei giornali davvero catastrofica per le notizie che arrivano, vale a dire le borse crollano. La situazione politica italiana è quella che è, pare a un passo dalla crisi di governo, con il capo dello Stato Napolitano che, come scrive Repubblica, scende in campo in prima persona. Intanto la situazione delle borse. Ieri, dopo l'annuncio del governo greco, del premier Papandreou, confermato poi dal governo, di voler fare un referendum sul piano di aiuti salva Grecia da parte dell'Unione Europea, una decisione che qualcuno dice è un vero e proprio referendum sull'Europa, sull'euro, una decisione che l'Unione Europea condanna, però ha affossato questo le borse di tutto il continente. Che sarebbe stato un martedì di passione, scrivono Isabella Bufacchi e Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore a pagina 3, lo si era capito sin dalle prime battute di reazione all'annuncio del referendum greco. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi alle 9:30 di ieri mattina era schizzato già a 436 punti base, ma il peggio, con lo spread che avrebbe toccato il record di 459 prima di chiudere a 442, doveva ancora venire. La notizia bomba giunta lunedì sera da Atene, dove il premier Papandreou ha annunciato di voler sottoporre un referendum popolare le misure di austerità in cambio degli aiuti di Unione Europea e Fondo Monetario, ha mandato in tilt il mercato, che ha iniziato a ipotizzare gli scenari peggiori: l'uscita della Grecia dell'euro, la perdita sui titoli di Stato greci, imposte ai privati dal 50% fino al 75% per via di un default non più pilotato, un contagio incontenibile su Spagna e Italia. a causa dell'assenza del fondo salva stati con operatività immediata. Con questo ovviamente il crollo della borsa. Ovviamente tutto questo ha coinvolto anche la politica italiana. Beh, ci sono giornali come Libero che titolano: siamo a un passo dal governo Monti, è pronto il governo Monti, così titola Libero, perché ieri prima il capo dell'opposizione Bersani ha parlato con il capo dello Stato Napolitano e poi la nota del Quirinale. Il presidente della Repubblica Napolitano, dinanzi all'ulteriore aggravarsi della posizione italiana nei mercati finanziari, considera ormai improrogabile l'assunzione di decisioni efficaci nell'ambito della lettera di impegni indirizzata dal governo alle autorità europee. E ha detto anche nella nota Napolitano: dal canto loro diversi rappresentanti dei gruppi di opposizione gli hanno manifestato la disponibilità a prendersi le responsabilità necessarie in rapporto all'aggravarsi della crisi. Insomma, Napolitano in questa nota scrive: sono improrogabili decisioni efficaci, il colle in campo, verificherò che ci sia una condivisione sulle scelte. Così titola Il Sole a pagina 4, interventi subito e con larga condivisione. Napolitano sollecita il Premier, sente l'opposizione, verificherò le condizioni di un'ampia convergenza. E tra l'altro su questo Claudio Tito, nel suo retroscena su Repubblica, a pagina 6, scrive: Giorgio Napolitano in pratica è sceso in campo, la crisi economica stringe in una tenaglia il nostro paese, la situazione politica non offre tutte le garanzie perché le misure reclamate dall'Unione Europea vengano approvate rapidamente. Non c'è alcun pressing su Berlusconi a fare un passo indietro, certo, ma solo la consapevolezza che in caso di crisi il Colle sarebbe obbligato a verificare ogni possibilità per mettere in condizione l'Italia di rispondere all'emergenza economica nel modo migliore. E a proposito di crisi di governo, ieri si è vociferato un po' di tutto, con un Berlusconi che sarebbe stato pronto al passo indietro. Ripeto, secondo Libero, nel resoconto di Elisa Calessi, che troviamo in prima pagina e poi a pagina 2, si è parlato proprio della strategia tra Bersani e Napolitano nella telefonata, la strategia da mettere a punto, la genesi dell'esecutivo Monti sarebbe questa: cade Berlusconi, potrebbe avvenire una genesi in tempi brevissimi in modo da non lasciare il paese in balia dei mercati. Sarebbe un percorso così: Napolitano convoca direttamente Monti, lo nomina presidente del Consiglio, nomina i ministri, manda il nuovo esecutivo in Parlamento per riscuotere la fiducia delle forze politiche, le quali non potrebbero non accordargliela vista la situazione difficile. E tra l'altro è un Berlusconi che, sempre per Repubblica, ieri in lungo vertice, che peraltro non ha partorito nulla, ma pare che oggi sia convocato un Consiglio dei Ministri, non c'è ancora l'ufficializzazione di quando, ma pare che ci sarà un Consiglio dei Ministri, perché domani Berlusconi deve andare al G20 a Cannes e deve presentare delle novità, e tra poco vedremo che cosa. Berlusconi avrebbe per la prima volta ammesso l'impensabile: ma secondo voi potrei fidarmi a mandare Monti a Palazzo Chigi? Questa domanda, secondo Francesco Bei su Repubblica, Berlusconi avrebbe iniziato a farla ai suoi stretti collaboratori, come dire, non è un'opzione da escludere. Però ci sono anche tanti altri retroscena di quello che starebbe maturando nella testa del Premier. Sempre secondo Francesco Bei su Repubblica, per esempio, l'idea è quella di far fuori Giulio Tremonti. Lo sappiamo, bisognerebbe tenere il bilancino, il termometro della temperatura dei rapporti tra Berlusconi e Tremonti, che almeno stando ai giornali sono altalenanti, sempre tendenti verso il rosso, verso il basso. Pare che siamo arrivati davvero, ma ripeto, questo lo diciamo quasi tutti i giorni, ai rapporti al lumicino. Allora, secondo Repubblica, scende il gelo con il Colle, Berlusconi pensa al rimpasto di governo per sostituire Tremonti. Sarebbe un'idea presentata già al Carroccio, mettere mano a un rimpasto che tocchi la casella strategica del Ministero dell'Economia. Secondo il Secolo XIX, nel retroscena di Giovanni Palombo a pagina 5, Tremonti ieri nella riunione a Palazzo Grazioli avrebbe detto a Berlusconi: è meglio che tu lasci ora. E gli attacchi a Tremonti proseguono sul Foglio. Eccolo qui il titolo di prima pagina: ministro unfit, to lead the treasury, blocca il governo italiano, cioè incapace di guidare il ministero. Usano il titolo dell'Economist celebre, no? Su Berlusconi, unfit to lead the country, incapace, non in grado di condurre la nazione. E allora così dice il Foglio in prima pagina: Giorgio Napolitano è sull'orlo del ritiro della fiducia istituzionale al governo chiamato a fronteggiare la gravissima crisi economica, anche perché Giulio Tremonti non ha dato sostegno alle contromisure allo studio dell'esecutivo. Se n'è accorto pure Romano Prodi, che ieri a Radio 24, aggiungo io, ha detto, come ha scritto il Foglio, è latitante di Tremonti, in 3 mesi ha rovinato la sua credibilità. Ed eccolo qui, il super ministro sotto processo, sta venendo il tempo di mettere la ragione e il cuore al posto del saggio di interesse, di mettere il pane al posto delle pietre, l'uomo al posto dei lupi. Questa, se avete capito il senso, è quello che ha detto Tremonti lunedì. E i commenti del PDL sono: stavolta esagerato, è nel peggiore moralismo opportunista possibile per Antonio Martino. Secondo lui stesso, o si piega alla politica del governo a cui appartiene o si dimette. Per Crosetto è un caso da neuropsichiatria. Insomma, diciamo che Tremonti è sotto accusa. Guardate anche il Giornale in prima pagina e nell'articolo che mette poi a pagina 5. Berlusconi, subito le misure nonostante Tremonti. Questo è il titolo a pagina 3. Berlusconi accelera. E allora cosa pensa Berlusconi? Beh, la patrimoniale è sempre un qualcosa su cui spinge Tremonti, mentre Berlusconi vorrebbe il concordato fiscale. Lo scontro è sempre questo: o patrimoniale o concordato fiscale. Qualcosa certo andrà fatto in tempi rapidi. L'appello di Confindustria ancora e delle imprese è questo, del manifesto delle imprese: il governo agisca o si dimetta. C'è anche un appello che viene messo in prima pagina del Sole 24 Ore, firmato da Giuliano Amato, Romano Prodi, dunque due ex presidenti del Consiglio, Alberto Quadrio Curzio e Paolo Savona, due economisti. In prima pagina del Sole l'appello è questo: il momento è drammatico, esige l'adozione di provvedimenti immediati e quantitativamente adeguati a fronteggiare l'emergenza. Ogni ritardo può avere conseguenze irreversibili per l'intero paese. Le nostre banche per prime potrebbero uscirne depauperate e paralizzate nella loro essenziale funzione di finanziamento delle imprese produttive. Nel giro di ore l'Italia deve risultare credibile tanto ai suoi partner istituzionali quanto al mercato. È responsabilità ineludibile di tutte le forze politiche, in primo luogo della maggioranza, creare le condizioni perché tale credibilità sia assicurata. E oggi, sempre in prima pagina del Corriere della Sera, il direttore Ferruccio De Bortoli torna nel suo editoriale Fermare la deriva a criticare molto anche il governo e Berlusconi, a chiedergli un passo indietro. Scrive De Bortoli: è un paese alla deriva, questa l'impressione che diamo all'Europa e ai mercati che continuano come ieri a punirci. Il governo ha le sue responsabilità gravi, anche se la crisi è globale. Dal 5 agosto, quando venne inviata la lettera della BCE all'Italia, nulla è stato fatto sul versante della crescita. L'opposizione invece, salvo rare eccezioni, apparsa nei giorni scorsi più preoccupata dalle idee di Renzi e della forma bizantina delle primarie che di dimostrare con proposte concrete di avere una cultura di governo europea. E poi scrive De Bortoli ancora: il tempo di Berlusconi è finito. La resistenza del Cavaliere non ha più senso, rischia di travolgere il suo partito e soprattutto il paese. Oggi ha davanti a sé una sola strada: presentarsi al G20 di Cannes con provvedimenti eccezionali, immediati, soprattutto credibili, oppure rendere possibile subito, con un gesto responsabile, un esecutivo di emergenza, anche a guida di un esponente della maggioranza che concordi con l'opposizione i tempi e i modi per scongiurare il pericolo di un fallimento e l'onta internazionale di vedere il paese con il cappello in mano. E insomma, cari ascoltatori, la situazione è questa, è una situazione molto molto delicata dal punto di vista politico. Per La Stampa, Ugo Magri: Berlusconi è pronto a fare quello che viene chiamato oggi decreto Europa, un nome pomposo, scrive Ugo Magri, ma che in realtà sarà più modestamente un'insalata russa di misure a costo zero, perché di soldi da metterci non ce n'è, dunque semplificazioni, sburocratizzazioni, delegificazioni, un pacchetto di nuove norme destinato a comprendere regole per gli appalti, defiscalizzazioni per le infrastrutture, forse addirittura un via libera allo smaltimento del patrimonio immobiliare pubblico. Ma la ciccia, quella vera, non è stata ancora decisa. Anche per il Corriere della Sera, il Cavaliere pensa a misure shock, così si titola pagina 8. Quali siano queste misure shock? La patrimoniale, quella caldeggiata da Tremonti, oppure un prelievo forzoso, il concordato fiscale, possibile anche il ricorso immediato al taglio delle famose 400 agevolazioni fiscali assistenziali. Il piano Ichino per il lavoro, insomma tutti i progetti, qualcosa da fare in maniera subito, rapida, veloce, anche perché incombe la crisi finanziaria, incombe il G20 di Cannes. Posso chiudere questa prima parte con un sorriso, visto che le notizie sono quelle che sono. Iena sulla Stampa dirà, prima o poi lo dirà, mercati comunisti. E allora alle 7:47 minuti, intanto i giornali appunto abbondano di retroscena anche del vertice di ieri, secondo Libero e Salvatore Dama, che è sempre abbastanza ben informato di quello che avviene attorno all'entourage del Premier, il Cavaliere Giulio litigano sulle dimissioni, con Berlusconi che avrebbe detto vogliono fare fuori il governo eletto democraticamente, allora noi scendiamo in piazza. Vabbè, insomma, il clima è questo, ma non si ride neanche in Europa, dove, ripeto, la decisione del governo greco, del primo ministro Papandreou, di indire un referendum popolare. I greci saranno tenuti a esprimersi sul piano di aiuti dell'Unione Europea alla Grecia, che è un po' come dire vediamo se ci sta bene l'aiuto dell'Europa oppure no, vediamo se ci sta bene stare in Europa oppure no, questo è il succo. E infatti le borse hanno punito questa decisione che anche Merkel e Sarkozy, che hanno deciso oggi di fare un pre-vertice d'emergenza, sapete che loro hanno il direttorio, no? Germania e Francia si riuniscono e fanno quelli che un po' decidono loro e poi vanno nei grandi consessi internazionali come il G20 venendo da pre-riunioni, pre-vertici d'emergenza. Comunque Nicolas Sarkozy si definisce costernato sulla decisione greca, questo fa sapere Marco Zatterin sulla Stampa, pagina 9, un'Europa spiazzata ad Atene, ed ecco l'incontro con la Merkel. L'opposizione è tutta a chiedere un governo di emergenza nazionale, tranne Vendola. Nicky Vendola, intervistato all'Unità da Andrea Carugati, due pagine, pagina 10 e 11, dice no. Se per rispondere all'attacco speculativo si chiude a tenaglia la stretta sul welfare, se si prosegue con la retorica dell'austerità, la politica della miseria, se non si mette in piedi un'idea di politica industriale di crescita, continueremo a produrre tagli su tagli senza effetti virtuosi sul debito pubblico. E dunque su un governo d'emergenza dico parere negativo. Non esistono ricette neutre. Se le medicine rischiano di uccidere l'ammalato, non è che se l'acquisto in una farmacia più grande gli effetti sono meno nefasti. Quello che ci rende vulnerabili agli speculatori è l'opacità della politica, l'autoreferenzialità di una classe dirigente barricata nei suoi fortini. Per me, dice, non sarebbe comunque un balsamo il fatto che Berlusconi cada. Insomma, Vendola vuole di fatto elezioni. Che dire in questo contesto? Devo leggere le intercettazioni che il Fatto Quotidiano pubblica, pagina 6, un'altra delle intercettazioni di Walter Lavitola, che in questo caso parla con un avvocato civilista romano, Gianni Meliadò, della visita del premier Berlusconi al primo ministro bulgaro Borisov. È il 15 ottobre del 2009. E nelle varie telefonate parlano anche, si è trombato qualcuna? Chiede la Vitola all'avvocato civilista. Non lo so tesoro mio, secondo me una, perché il giorno prima io vedo sull'aereo una strafiga bionda, elegantissima, tacchi alti, alle 10 del mattino, tutta pradata, che io non ho mai visto sul volo Roma-Sofia. Pradata, immagino, vestita tutta di Prada, no? Dico, strana questa cosa, mai vista? Vuoi vedere che sta qui per l'evento? E infatti l'ho vista in prima fila, lì. Vabbè, insomma, il titolo del Fatto Quotidiano: ma Berlusconi quante se ne trombate? Questo chiede la Vitola in un'intercettazione con un amico, si informa sul viaggio del Premier a Sofia. Per quanto riguarda la cronaca, io voglio segnalare alcune cose. Beh, intanto ha fatto molto scalpore questa foto che vedete di Amanda Knox, ma insomma è innocente. Certo, di cattivo gusto forse festeggiare la notte di Halloween, quella in cui 4 anni fa fu uccisa Meredith Kercher. Lei certo è stata assolta insieme a Raffaele Sollecito, ma vestita così da ladra, con dei baffetti disegnati sul volto da gatta, da donna gatta, e quindi da ladra, il padre di Meredith Kercher dice: quella foto fa male vedere, per carità è un travestimento sobrio, ma forse fa male sapere che invece di ricordare l'amica uccisa da chi chissà 4 anni fa, Amanda abbia festeggiato la notte di Halloween. È insensibile, trovate le foto un po' ovunque. Poi questa notizia che ieri è uscita in piccolo sul Corriere della Sera, io la voglio rilanciare perché insomma queste cose fanno capire che in Italia qualcosa non va. Vi ricordate la vicenda di Anna Rita Buonocore, un'infermiera che rapì un neonato 2 anni fa? Lo rapì perché? Perché aspettava un figlio che poi perse, ma durante la gravidanza l'idea crudele, folle, è fingere di aver partorito per tenersi stretto l'amante che voleva un figlio da lei. Allora, siccome lei faceva l'infermiera, rapì un neonato dal reparto di neonatologia dove lavorava. Fortunatamente la vicenda fu risolta, fu trovato nel giro di poche ore questo neonato, fu riconsegnato alla madre naturale. Rapì bebè in ospedale, una giustizia folle la rimanda dove a lavorare, dove? All'ospedale. È incredibile, ma è così. Condannata a 6 anni, è già fuori, o meglio, è agli arresti domiciliari dopo 9 mesi, ha chiesto il diritto di tornare a lavorare perché è l'unico suo sostentamento, e un giudice decide che può tornare a lavorare. E qui vabbè, insomma, va bene, insomma, può tornare a lavorare. E scrive il giornale a pagina 16, cosa tornerà a fare? Cosa la mettiamo a fare? Qualcos'altro? Un tipo di... No, la mettono a lavorare in ospedale, dove lei rapì un neonato un paio di anni fa. Rapì bebè in ospedale, una giustizia folle la rimanda in corsia. 24 mattino. Allora, quando sono le 8 e 21 minuti, eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vogliamo parlare della situazione economico-finanziaria europea, italiana, certo non facile, per usare un eufemismo. Alla vigilia del G20 lo facciamo con il professor Vincenzo Visco, economista, è stato ministro nei governi Prodi. Professor Visco, buongiorno. Buongiorno. Senta, qualcuno dice l'Italia è un paese troppo grande per crollare, non siamo la Grecia, non siamo l'Irlanda. Secondo lei è troppo ottimismo o l'Italia rischia il default? È una cosa con cui fare i conti? Ma quando si dice troppo grande per far vivere, normalmente si vuole dire che prima che si arrivi all'irreparabile qualcuno o altro interviene a dare una mano, no? Così come accadde per le banche americane, che nel 2008 furono tutte salvate con soldi pubblici. Quindi questo vuol dire, ma tecnicamente può fallire tranquillamente qualsiasi paese, no? persino appunto gli Stati Uniti. Quindi è un fatto, dipende non solo dalle condizioni in cui si trova il paese, ma ahimè da come viene considerato. Senta, il problema nostro è questo, essenzialmente. Come viene considerato dai mercati internazionali, sì, per esempio? Sì. Secondo lei c'è pochissima, che livello di credibilità abbiamo in Italia? Pochissima, poca, tanta? No, questi si sono convinti che noi siamo nelle mani di un governo inaffidabile, incapace, che non vuole fare cose che vanno fatte. E quindi si comporta di conseguenza. E così facendo rischiano effettivamente di metterci in una condizione di non ritorno. Senta, ma dal punto di vista politico, chiedere cosa dovrebbe fare una sana opposizione, secondo lei? Chiedere, come sta facendo le opposizioni, un governo di salvezza nazionale, oppure dire no, stringiamoci al momento, fate delle cose, noi le valuteremo e le appoggeremo? L'opposizione, questa seconda cosa, già l'ha fatta a luglio. E poi si è visto che il governo è sempre un passo o due indietro, in ritardo, e non fa le cose che gli vengono chieste. Quindi l'opposizione ha due possibilità oggi: di chiedere appunto un governo di salvezza nazionale, e questo significa appunto affrontare la situazione quella che è, perché poi questo governo da qualcuno dovrebbe essere sostenuto, sia, o da tutti o comunque da molti, compresa l'opposizione. Oppure chiedere le elezioni per cambiare il governo, il che ovviamente può comportare dei rischi. Perché il paese tanto non è governato neanche adesso, quindi se ci fosse una pausa elettorale non cambierebbe moltissimo. I mercati gradirebbero molto che Berlusconi andasse via. Lei dice. Senta, il capo c'è un dubbio, l'hanno detto in tutti i modi possibili. Il capo dello Stato parla di misure da prendere subito e se ne discute, sono allo studio. Per esempio, secondo lei qual è la più urgente? Certo che ce ne sono varie, ma la riforma delle pensioni, la riforma del mercato del lavoro, la patrimoniale, qual è quella assolutamente non prorogabile neanche di un'ora? Ma guardi, il problema non è individuare quella non prorogabile. Noi ci portiamo in questo paese ormai da moltissimi anni come una zavorra, no? Non abbiamo mai voluto risolvere definitivamente il problema del disavanzo pubblico. Questo era stato fatto dai governi centrosinistra che nel 2001 avevano stabilizzato un surplus primario 5,5 punti, che è stato immediatamente liquidato negli anni del centrodestra, ricostituito ancora un po' dal centrosinistra e poi eliminato completamente in questi ultimi anni. E noi dobbiamo tornare a una situazione in cui abbiamo un avanzo di bilancio rilevante, in modo che il debito scenda. Per fare questo non ci sono molte strade, cioè bisogna spendere di meno o tassare di più. Il guaio è che una volta che noi ci eravamo giunti e la gente aveva accettato, anche se non era felicissima, bisognava restare fermi, perché sennò adesso diventa difficilissimo, perché come rimettere il dentifricio nel tubetto una volta che è uscito. E quindi è evidente, per esempio, il problema pensionistico è un problema, sì. Che ne dica Bossi. Però lei in un'intervista ha detto anche la sinistra avrebbe problemi a toccare le pensioni d'anzianità, cioè un tema delicato. Certo, ma è evidente che tutti hanno, cioè, però il punto è che le alternative sono peggio, cioè un default è peggio di una guerra perduta. Certo. Di una devastazione bellica, significa che la gente si sveglia la mattina e trova le banche chiuse e vuole andare a prendere lo stipendio e non lo trova, insomma questo è il default. E poi riprendersi diventa difficile, anche se non è impossibile. Quindi bisogna fare misure impopolari senza guardare magari a quello che dal punto di vista dell'elettorato. Bisogna guardare l'equità il più possibile, ovviamente che Berlusconi, cosa Berlusconi non fa, però bisogna fare, non puoi aspettare un giorno dopo l'altro che ti massacrano, perché questo massacro è ingiustificato, tornando al discorso di prima se l'Italia può fallire o meno. L'Italia è solvibile, deve solo mettersi in ordine e poi deve fare un po' di riforme, di modernizzazione, di funzionamento per appunto la ripresa dello sviluppo Insomma, dalle liberalizzazioni e altre cose, insomma, se ne sta parlando da tanto tempo. Il governo comincia da licenziamenti, che è l'ultima cosa per la quale ci può essere un'urgenza. Senta, tra le ipotesi che circola in queste ore anche quella di un prelievo forzoso sui conti correnti, non si capisce bene, ovviamente è un'ipotesi che circola. Lei che ne pensa nel caso? Cioè come misura di emergenza? Per conti correnti dipende, quelli bancari e processi. È la misura che introdusse il governo Amato nel 92 e fu sul modello Amato del 92, esatto. Fu la meno indicata oltretutto da pochi soldi. Se si va andare sul prelievo patrimoniale ci si vada, ma il patrimonio è composto di tante cose, soprattutto da immobili. Quindi meglio una patrimoniale, se vuole andare. Meglio un'imposta. Poi la patrimoniale che cos'è? Non è necessariamente una patrimoniale confiscatrice. La situazione le cose da fare, la prima cosa da fare è completare questa benedetta manovra di agosto, dove mancano 20 miliardi ancora, cioè perché quelli sono stati rinviati a una delega, anzi due deleghe, quella fiscale e quella assistenziale, che sono puramente indicative. E quindi la mia cosa è fare quello, e poi fare le misure cosiddette per lo sviluppo di cui si parlava in precedenza. Sì. L'ultima, comunque adesso è la Grecia che è tornata in prima linea. Che è tornata in prima linea, certo. L'ultima domanda, la questione del ministro Tremonti. So che lei, diciamo, è stato in quella posizione, ma non lo è, ma si leggerà i giornali, si parla di un Tremonti che rema contro Berlusconi e Tremonti che sono un po' a rapporti al lumicino. Come giudica il ruolo di Tremonti in questo momento? Ma come ha detto Bossi, che è defilato. È defilato, e perché? Lui che è stato poi uno dei principali autori, se non l'autore principale di questo disastro, vede che sta crollando tutto e cerca di dire: io passavo di qui per caso. Dice. Va bene, intanto io la ringrazio, professor Visco, per essere stato con noi. Il professor Vincenzo Visco è stato ministro alle finanze, vice ministro alle finanze dei governi Prodi. E noi ci fermiamo, questa è la sua analisi della situazione economica e finanziaria. Vi siete accorti, cari cittadini, che la benzina e il gasolio costano un centesimo di più da un giorno da ieri? Questo perché è stata aumentata l'accisa dello 0,79% più IVA, dunque fa circa un centesimo, perché bisogna aiutare gli alluvionati di Liguria e Toscana. Nobile principio, assolutamente, che sottoscriviamo. Sono contento di pagare la benzina di più per gli alluvionati della Liguria e della Toscana, alla quale va tutta la nostra solidarietà. Però ci vogliamo chiedere, ma era proprio il caso di toccare la benzina? Cioè i soldi non si possono trovare, questi 65 milioni, in altri modi? Noi ce lo chiediamo, senza ipocrisie. 800 24 0024 tra poco. Alle 8:36 minuti, eccoci qua. Vogliamo tornare a parlare della situazione in Liguria e Toscana, degli alluvionati, dell'alluvione. Lo vogliamo fare con questo tipo di taglio. C'è l'aiuto giusto, sacrosanto, che sottoscriviamo, la solidarietà, i soldi da trovare per ricostruire tutti i paesi che sono stati devastati. Quello che ci ha colpito, la notizia uscita sui giornali, un po' in sordina a mio modo di vedere colpevolmente, è che da ieri, cari cittadini italiani, la benzina costa di più. Costa circa un centesimo al litro in più, perché è stata aumentata, è stato deciso l'aumento delle accise, è il quarto in sette mesi, di 79 centesimi. Poi c'è l'IVA, dunque si arriva circa a un euro, questo rimarrà fino al 31 dicembre. A meno che, insomma, le esperienze passate ci dicono che a volte viene prorogato, perché bisogna così integrare il fondo da 65 milioni per finanziare gli interventi di emergenza in Liguria e Toscana. Insomma, il governo ha deciso di ritoccare il prezzo della benzina, ma non si poteva davvero reperire questi soldi in altro modo? Ne parliamo con il senatore Franco Orsi del Popolo della Libertà. Senatore, buongiorno. Buongiorno senatore ligure, tra l'altro, sindaco anche di Albisola. Saluto anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno Rienzi. Buongiorno. Anche voglio salutare un piccolo imprenditore che ci ha mandato una mail molto accurata, lo chiameremo Roberto. Signor Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei. Una mail molto accurata nella quale lei ha scritto uno sfogo del tipo: lei è di Aulla, una delle zone colpite. Perché dovrei lavorare 15-16 ore al giorno per togliere fango e materiale danneggiato, forse per pagare le tasse affinché il sindaco di Aulla possa stanziare i soldi per la statua dell'Arcuri? O forse devo lavorare per dare la possibilità al geometra dell'ufficio tecnico del comune di continuare a taglieggiare le aziende che aprono nella zona? Questa è un'accusa molto molto forte. Perché lei, signor Roberto, è così arrabbiato? Sono arrabbiato perché sono 30 anni che lavoro, 30 anni che tiro la famosa carretta e non si arriva a niente, perché essere un piccolo imprenditore oggi in Italia vuol dire essere taglieggiati, essere vessati da ogni cosa, non avere possibilità di sviluppo, non avere un futuro davanti. Quindi sono stanco, questa botta dell'alluvione può essere l'occasione per cambiare completamente, lasciar perdere di fare l'imprenditore, piccolo imprenditore considerato ladro, considerato evasore, quindi un parassita della società, e non ci si ricorda che il tessuto connettivo di questa nazione sono i piccoli imprenditori, non sono le grandi aziende, ma sono i piccoli imprenditori che tengono in piedi l'Italia. Ma siamo tutti stufi. Senta, che ne pensa di quello? Ha un'idea sul fatto dell'accisa della benzina che è aumentata? Tra l'altro in Toscana è aumentata anche di più, perché c'è la possibilità della regione di aumentare ulteriormente con un'accisa, diciamo, regionale sulla benzina. Comunque in Toscana costa anche di più e la Liguria farà la stessa cosa, credo. Sicuramente, ma a noi non ne verrà nulla, come sempre. I soldi spariranno nel calderone dello Stato e noi saremo come sempre soli a doverci tirare su tutti quanti le maniche per riaprire la nostra piccola attività e per riprendere il nostro lavoro, perché come sempre è successo, non si arriva mai a nulla. Già ci si è dimenticati dell'alluvione in Veneto, è passato un anno dall'alluvione in Veneto, sì. E quel che risulta, nessuno ha preso un euro ancora da tutti gli aiuti. Oggi cavalchiamo l'onda della Liguria e della Toscana per avere un po' di consenso politico, faremo, ma poi alla fine cosa fanno? Niente, come sempre niente. Allora, Carlo Rienzi del Codacons è arrabbiato? Detto che la solidarietà, per carità, l'aiuto, la vicinanza a tutte queste popolazioni è giusto, ma il fatto che per rimpolpare questi 65 milioni che servono si sia toccata la benzina, che considerazione le fa fare? Ma mi fa pensare che siccome non sanno trovare i soldi dove devono cercarli, la cosa più semplice per loro è dire: vabbè, la gente tanto alla pompa a mettere il pieno ci va, becchiamoli là. Cioè, insomma, è una cosa veramente vergognosa. Non sono in grado né di far pagare le tasse in questo paese a chi non le paga, né di pensare, per esempio, che i petrolieri, visto che parliamo di benzina, fanno dei profitti enormi, le società petrolifere fanno dei profitti enormi. Allora, invece di prendere questo centesimo dal poveraccio o non poveraccio, perché chiaramente chi fa benzina può essere sia ricco che povero, ma la maggior parte naturalmente sono una massa di cittadini, sono di medio reddito, invece di prendere questo centesimo, prendiamolo dai profitti dei petrolieri, prendiamo i bilanci dei petrolieri e facciamo un bel taglio dei profitti, visto che sono profitti che sono tutti speculativi. Cioè, se fossero profitti fatti lavorando e sudando dalla mattina alla sera potrei anche capire, ma sono profitti fatti semplicemente giocando sul prezzo del greggio nei mercati internazionali, scommettendo sull'acquisto e la vendita di titoli che sono collegati al Brent, al greggio, eccetera, e guadagnano così, facendo tardi quando cala il greggio ad abbassare alla pompa il prezzo della benzina e facendo di corsa ad alzarlo quando alza il greggio. Quindi diamogli giù a questi. Dice, diamogli giù. Vabbè, ma già l'idea di dare giù io la capisco poco, però lei dice perché andare a colpire nel portafoglio. Vogliamo chiedere al senatore Franco Orsi, che come detto è il Popolo della Libertà, è sindaco di Albisola, tra l'altro, quindi ligure, una Liguria, soprattutto la Liguria devastata nelle sue terre anche più belle, più preziose, le Cinque Terre. Senatore Orsi, intanto la domanda che poi si chiedono tutti è: l'accisa è stata aumentata fino al 31 dicembre, ma qua ci si crede poco che poi che poi no, sarà una misura temporanea, perché ne abbiamo viste di queste misure temporanee che paghiamo ancora dal 1900 e rotti, senatore. Lascerei le polemiche nel caso in cui da temporanea diventasse definitiva. E oggi mi concentrerei sul fatto che servono 65 milioni, che l'incremento dell'accisa incide, come lei ha ricordato, anche se poi ha fatto un'imprecisione parlando di euro, di un centesimo al litro. Sì, un centesimo al litro. No, ho detto un euro al litro. Quindi vuol un dire centesimo un al litro. 50 centesimi. Certo. Queste risorse sono, per il provvedimento, interamente vincolate a copertura del fondo di protezione civile, e quindi saranno quelle grazie ai quali gli spalatori del fango otterranno ristorno delle risorse. Non è vero che in Veneto non è ancora arrivato un euro, questo non è vero, e le imprese private sono state indennizzate per una quota già consistente. Quindi parliamo di un provvedimento legato alla necessità di far fronte immediatamente a delle risorse per sgravare una situazione che credo che sia terribile. Io credo che ci dovremmo anche mettere dalla parte dei cittadini delle zone che hanno subito questa catastrofe e riconoscere che se il provvedimento più semplice e più rapido previsto tra l'altro dalla legge è quello di un piccolissimo incremento della benzina che equivale a meno dell'SMS che molti italiani in questi giorni stanno mandando alle raccolte. Dice il metodo più facile, il metodo più rapido, in nome della solidarietà va fatto. Poi mi faccia dire anche un'altra cosa, perché quello che dice il rappresentante del Codacons rispetto a i profitti, diciamo, delle società petrolifere anche legate all'instabilità dei mercati finanziari, è la ragione per la quale nella manovra di agosto questo settore è stato gravato di una imposta straordinaria che cuba 1.600 milioni, da 1.600 milioni a 1.800 milioni. Quindi questo correttivo in un momento in cui c'è stato, l'Italia doveva dare una risposta per 1.600 milioni alle imprese petrolifere è stato dato. Però senatore, l'accusa è nessuno mette in dubbio che servano dei soldi e che tutti i soldi servano. 1.600 milioni in una manovra di tagli che ha cubato oltre 20 miliardi e noi qui stiamo parlando di 65 milioni che devono essere reperiti entro oggi, anzi oggi hanno appunto già senatore, la questione è quella, cioè perché devono essere, il fatto che servano questi soldi è sacrosanto e nessuno lo mette in dubbio, nessuno vuole togliere il sostentamento economico alle persone che sono in difficoltà in questo momento. La domanda che alcuni si pongono, ma se lo pongono, guardi, anche ieri se la poneva Libero, quindi un giornale certo vicino anche al governo, è: ma perché, non so, la politica non guarda un po' questi 65 milioni? Non si poteva, lo so, mi faccia fare del qualunquismo, non si possono vendere le 19 Maserati che il Ministero della Difesa ha appena comprato, che forse non erano strettamente necessarie, non comprare quelle, dare un segnale dalla politica invece di dire subito andiamo a toccare la benzina, perché è il provvedimento più facile e più veloce che si può fare. È da qui che voglio ripartire, anche dal nostro imprenditore Roberto che sta mietendo successo, no? Molti scrivono: Roberto, siamo tutti con lei. Allora, 8:48 minuti, stiamo discutendo del fatto che per trovare i fondi, 65 milioni per aiutare gli alluvionati di Liguria e Toscana, è stata aumentata anche la benzina, l'accisa sulla benzina, un centesimo al litro, non un euro al litro, come ho detto erroneamente prima, ci sarebbe stata la rivolta coi forconi. Un centesimo al litro. Signor Roberto, ecco, il nostro imprenditore arrabbiato, sfiduciato, non c'è un po', detto che molti la sostengono via SMS, dicono bravo, sei tutti noi, eccetera, insomma, porta avanti queste, però non c'è un po' di demagogia, populismo a dire la politica non fa proprio nulla, questo disfattismo a dire ci ritroviamo così, dopo 30 anni non fanno niente di niente. Niente di niente, lei prenda internet, cerchi una tribuna politica degli anni 70 e ascolti una tribuna politica, una trasmissione alla televisione, stanno dicendo esattamente le stesse cose. L'Italia è un'azienda, una grandissima azienda, ci sono 600 amministratori a Roma che dovrebbero far funzionare questa azienda. Cosa fa? Lo sa anche il negoziante, quando c'è poco lavoro, c'è crisi, non si raddoppiano i prezzi di vendita dei prodotti, si va a lavorare sulle spese, si contengono le spese. Apprendo da lei adesso che hanno preso le Maserati, cioè le sembra una cosa da imprenditore. Il problema, a mio parere personale, è che questi signori non lavorano, intrallazzano, perché loro devono avere il consenso del voto, il resto non ha nessunissima importanza, non gliene frega niente delle aziende, dei piccoli imprenditori, di nulla. L'ho scritto anche nella lettera, i sindacati, cosa fanno i sindacati? Non hanno più la Fiat con cui combattere. Se la Fiat lascia a casa 100 persone, scendono in piazza a far tanta cagnara. Se 1000 aziende come la mia lasciano a casa un dipendente, quindi 1000 posti di lavoro perso, non gliene frega niente a nessuno, né ai politici né ai sindacati. Quindi noi che teniamo in piedi questa azienda che si chiama Italia, siamo da soli e siamo continuamente, tutti i giorni, presi a mazzate, perché devono spremerci, siamo noi ladri che non paghiamo le tasse, è questa la situazione. Carlo Renzi, è demagogia dire la politica questi soldi poteva trovarli in altro modo, oppure il senatore Orsi dice ma è la cosa più rapida, facile e temporanea, e noi vogliamo crederci che sia temporanea fino al 31 dicembre, aumentare l'accisa sulla benzina. Ma temporanea, noi paghiamo ancora per la guerra di Etiopia del 1930. Sì, questo è vero, è per questo che io sono un po' quindi, pessimista, però aspettiamo il primo gennaio 2012 e vediamo. Intanto paghiamo, quanto a quello che dice il senatore, 1.600.000.000 presi dai petrolieri, ecco, allora, visto che erano solo 65 milioni, ma non potevano aggiungere un altro centesimo ai petrolieri, considerato che se i petrolieri hanno preso quei soldi, ai 9 milioni di pensionati italiani gli hanno tolto il 20% del valore della pensione con la manovra, tant'è che noi abbiamo dovuto lanciare ieri una mega class action per i pensionati per recuperare almeno in termini compensativi qualche cosa di questi poveracci. Allora io dico, non è possibile andare sempre a colpire indistintamente tutti, prendiamo anche le compagnie di assicurazioni. E andiamo a capire anche perché dobbiamo pagare noi l'alluvione in Liguria, quando il risultato dell'alluvione viene fuori perché c'è il massacro del territorio da parte di sindaci e costruttori che non hanno guardato a quello che facevano. Lo stesso a Roma per i tombini, cioè se i tombini fossero stati stappati non avremmo adesso il problema dello stato di calamità e cacciare altri soldi per pagare i danni ai romani. Allora bisogna andare a trovare i responsabili. Una volta tanto il governo faccia una commissione d'inchiesta che in 2 mesi, ma non 2 anni, accetti le responsabilità delle alluvioni, accetti le responsabilità dei tombini di Roma e dica adesso questi signori prima di tutto li cacciamo via, li licenziamo e poi gli facciamo pure pagare i danni se c'hanno i soldi per pagare. Senatore Orsi, lei che tra l'altro fa parte della Commissione Ambiente e Territorio al Senato, mi risulta, ecco, l'accusa è dire dobbiamo sempre pagare tutti i cittadini e ripeto, lo dico per l'ennesima volta, noi siamo contenti di stare vicino alla con la solidarietà agli alluvionati, però dobbiamo pagare tutti per magari responsabilità che sono anche politiche, anche degli amministratori locali. Adesso non stiamo a fare, lei è qui rappresentante della politica, mettiamola in croce simbolicamente, ma non ce ne voglio dire, no? Ma fa parte delle regole. Guardi, io contesto una cosa, che questa trasmissione rispetto a le esigenze di riorganizzare dal punto di vista economico il nostro paese, chi deve pagare, può essere fatta, perché ahimè i temi non scadono, 364 giorni l'anno, e credo che sia inaccettabile che di fronte a un provvedimento che graverà mediamente sulle famiglie dai 2,50 euro ai 3 euro per dare risposta ad una situazione disperata, lo si metta nel calderone di tutti i temi che sono ben noti. Ma 2,50 euro a quanto? 2,50 euro a quanto? Ma scusi, 2,50 euro a quanto? Io non so, un centesimo al litro, se adesso allora, non voglio farla. 50 litri di benzina, mediamente il parco macchine italiano delle famiglie fa 10-12 mila chilometri l'anno. Sì. Con un pieno di benzina si fanno mediamente 500 chilometri, il che vuol dire che ci sono 2 pieni mediamente alle famiglie, sono 1 euro al mese. Un euro al mese. Io guardi, sulla allora, matematica a quest'ora non. Di 2 euro per rispondere ad una emergenza che ha le caratteristiche della drammaticità. Altro discorso, e io su questo voglio dire, non solo considero legittime, ma anche molto serie tutte le cose che vengono dette, di un problema di organizzazione finanziaria, di riorganizzazione, di rientro dal deficit. Ma per carità, queste sono cose più ampie. Le situazioni dei consumatori ha inciso 150, 200, 250 euro a famiglia e che può e che deve portare anche a vedere chi paga questi costi. Questo è un discorso che... Ma questo sicuramente, cane, però è il principio, senatore, è il principio. Ci siamo, potete fare la trasmissione su questi temi in qualunque giorno, ahimè ci saranno le polemiche perché risorse bisogna trovarne ancora, ma lasciamo stare i 65 milioni, quattro spiccioli per dare una risposta. Guardi, ma senatore, io non lascio stare, ma non è questione di lasciare stare, intanto lascio stare perché è finito il tempo e ringrazio tutti, ma la questione di principio è il principio, fosse anche un euro è il principio di dire, proprio perché sono 65 milioni, cioè sono spiccioli per uno Stato, un bilancio dello Stato, e che li si trovasse in altro modo. È questa la questione che oggi ci vogliamo porre, senza mancare di rispetto. Noi qua abbiamo seguito dal primo giorno e siamo vicini a tutte le persone alluvionate, però insomma ci si può anche fare queste domande, no? Intanto ringrazio tutti, dagli ospiti, la redazione, devo chiudere, do la linea a Oscar Giannino e ci sentiamo, l'alpino Peter Bescapè, si sa, e ci sentiamo domani alle 7:20.